non ho alcuna difficoltà nel dire che in particolar modo quando si ricopre una carica di governo, quando si giura fedeltà alla Costituzione, quando si agisce nel nome non di una parte ma nel nome del governo della Repubblica, sempre e comunque in quei casi si deve avvertire un dovere supplementare e ulteriore di rispetto, perché certamente nessuno, men che meno un ministro, deve pronunciare parole che possano offendere quello che è il sentimento nazionale.